Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Arte e punture di spillo, anche queste due cose riusciamo a mettere insieme a Mebius. Benvenuti e benvenute, i titoli allora di questa puntata. La Venere del Botticelli usata per alleviare il dolore fisico. Un team di ricercatori baresi ha studiato la reazione al dolore di fronte ad un'opera d'arte bella. Scoperte sul lago di Iseo le orme di antichi rettili antenati dei dinosauri. Sono le più grandi tracce mai rinvenute in Italia. Charles Darwin ragionò anche sui fenomeni geologici nel suo lungo viaggio intorno al mondo e partì con un'idea del pianeta che al termine del viaggio era profondamente cambiata. Dalle neuroscienze può nascere un'azienda. Uno spin-off universitario sta tentando con successo questa strada. A volte sono lontane e contrapposte, altre vicine e collaborative. È la lunga storia delle relazioni fra arte e scienza. Un libro ne parla guardando ai musei. C'è chi dice che la Venere del Botticelli è un bel quadro, ma vi è anche chi sostiene che è brutto. Ma se mentre esprimete il vostro giudizio, guardando il quadro, vi pungessero una mano, Chiara Albicocco vi spiega cosa può succedere. La lunga chioma bionda, dolcemente mossa dal soffio di Zefiro, il vento fecondatore. La nascita da una conchiglia cullata dalle onde. Il mantello fiorito, porto dalla ninfa della primavera. Elementi eleganti, soavi e straordinariamente piacevoli rendono la nascita della Venere del Botticelli un vero capolavoro, oggettivamente bello. Le linee eleganti, armoniche, danno a chiunque osservi il dipinto una sensazione di benessere, di serenità. Questo a livello di percezione visiva. Ma in realtà succede qualcosa anche a livello neurologico. Un gruppo di ricercatori baresi ha deciso di studiare il rapporto tra il bello o il brutto e il nostro cervello, studiando anche come il valore estetico possa influenzare la percezione del dolore. Già a fine Ottocento, Pierre-Auguste Renoir inviava in prestito i suoi dipinti agli amici ammalati, ritenendo che l'arte potesse attutire il dolore e favorire così il processo di guarigione. È davvero così? Lo chiediamo a Marina De Tommaso, del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell'Università di Bari, che ha coordinato questo studio. Intanto benvenuta. Buonasera. Dunque, dicevamo, è davvero così? Insomma, l'arte, indiscutibilmente il bello, davvero lenisce anche il dolore fisico? Guardi, non possiamo dire indiscutibilmente perché abbiamo condotto questo esperimento su volontari sani e abbiamo messo in evidenza che davanti ad immagini a contenuto estetico bello queste persone, diciamo, avevano una minore sensazione dolorosa rispetto a quando vedevano quadri che giudicavano brutti. Ecco, allora mi sembra interessante a questo punto spiegare agli ascoltatori come siete giunti ai risultati, cioè come si sono svolti gli esperimenti. Gli esperimenti si sono svolti con degli studenti universitari che volontari, sì. Vedevano in giorni distinti 300 quadri riprodotti su computer, davano dei giudizi soggettivi su una scala dove 0 era il massimo del brutto e 10 era il massimo del bello. I punteggi intermedi valutavano un giudizio di neutralità rispetto alla bellezza o alla bruttezza del quadro. Dopo aver poi selezionato un certo numero di quadri che questi ragazzi avevano soggettivamente giudicati come belli, brutti o come neutri. Ci fa qualche esempio? Quale consideravano bello e quali consideravano brutti? Per darci un'idea. Non ci sono in assoluto dei quadri che tutti giudicavano nella stessa maniera rispetto al giudizio estetico. Diciamo che alcuni quadri davano dei risultati abbastanza unanimi, come potrebbe essere la Venere di Botticelli, ecco. Quasi tutti hanno detto che era bella, ma ovviamente c'è chi l'ha giudicata più bella, c'è chi l'ha giudicata meno bella, questo, ma comunque nessuno ha detto che fosse brutta. E così anche la Gioconda, hanno tutti detto che era bella, ma con un diverso grado di bellezza. Quindi c'era una certa variabilità tra un soggetto e l'altro. Quale, siamo curiosi, capolavoro è stato considerato brutto? Ma guardi, brutti venivano considerati certi quadri di Picasso, in particolare un autoritratto di Picasso, che era un autoritratto che l'artista aveva dipinto negli ultimi anni della vita. In effetti poi abbiamo verificato che esprimeva anche uno stato di malattia, di sofferenza dell'autore. Qualche quadro di Botero, insomma, questi quadri di Botero che in genere questi quadri raffigurano persone grasse, forse questo ha portato molti ragazzi a giudicarli non belli. Ho capito, ok, quindi messi davanti a queste opere d'arte giudicavano se fossero belli e brutti e poi? E poi venivano riprodotti sul computer e ogni ragazzo aveva, diciamo, un suo set sperimentale personalizzato, ovviamente sulla base delle immagini che egli stesso aveva giudicato dal punto di vista estetico, e quindi aveva un task di bellezza, un task di neutralità e un task di bruttezza in quanto a immagini. Mm-hmm. Durante appunto questi set sperimentali venivano stimolati con uno stimolo doloroso del quale noi siamo in grado di verificare poi la conduzione e la elaborazione a livello della corteccia cerebrale. Provocavate quindi, loro del dolore? No, grave ovviamente. Diciamo che stimoliamo la via dolorosa, stimoliamo la via dolorosa selettivamente con uno stimolo specifico e quindi siamo in grado di valutare quanto stimano l'intensità di questo dolore e quanto vengono attivate le aree del cervello che elaborano gli stimoli dolorosi. Ecco, per l'elaborazione del dolore come facevate a registrarlo? Con degli elettrodi? Sì, sì, venivano posizionati 60 elettrodi sullo scalpo, veniva registrato il segnale elettroencefalografico e dal segnale elettroencefalografico di base venivano estrapolate le risposte strettamente correlate alla stimolazione dolorosa. Quindi i ragazzi di fronte a immagini belle o brutte venivano, diciamo così, pizzicati su un dito e poi la reazione veniva registrata da questi elettrodi. Quindi sì. Possiamo affermare che la persona allora somatizza lo stimolo dell'opera d'arte, in questo caso positivo, e percepisce la sensazione di dolore in maniera più fievole? Sì, questa è stata, diciamo, l'impressione in questa circostanza, che l'immagine bella aveva un forte effetto distraente rispetto al dolore, ecco, molto meno rispetto a quando l'immagine era brutta, che però peraltro non aumentava il dolore, semplicemente aveva minore effetto distraente. Noi abbiamo concluso che la tipologia di distrazione, di stimolo distraente dal dolore è diversa a seconda del contenuto dell'immagine. Insomma, contenuto estetico. Certo, si può pensare di usare questo tipo di tecnica anche in campo terapeutico, come avviene ad esempio per altre arti, penso alla musicoterapia oppure alla cromoterapia? Ma infatti la musicoterapia e la cromoterapia traggono spunto da un'ipotesi simile, tutto sommato, a quella che noi abbiamo poi provato in questo esperimento. E la nostra idea, e quindi il futuro sviluppo attualmente già in atto dello studio, è quello di verificare l'impatto estetico ambientale, perché la nostra impressione è che si debba dare attenzione negli ambienti ospedalieri anche all'aspetto estetico. Infatti, perché gli ospedali, i centri di cura del dolore, sono sempre brutti, esteticamente poco curati? E infatti, cioè in genere l'architettura ospedaliera è volta alla funzionalità e poco all'estetica, mentre noi badiamo molto all'estetica quando arrediamo una casa. La nostra impressione, però è un'impressione così ancora non provata, è che probabilmente l'impatto estetico può essere distraente da sensazioni spiacevoli come può essere quello del dolore, quindi ovviamente un ospedale purtroppo è un posto dove normalmente si tende a provare dolore. Mi raccontava che anche la vostra ricerca adesso tende a spostarsi verso questa direzione, cioè il futuro del vostro studio tende a questo scopo. Sì, abbiamo contattato un centro di ricerca che ci sta mettendo a punto un dispositivo per ricostruire una realtà virtuale di ambienti ospedalieri a diverso contenuto estetico. Quindi ricostruiremo ambienti ospedalieri classici e ambienti ospedalieri che con la valenza di un architetto verranno comunque disegnati in modo esteticamente gradevole. Ovviamente dopo faremo sempre giudicare soggettivamente al soggetto normale, ma anche a un certo numero di pazienti con dolore cronico che abbiamo deciso di reclutare, faremo giudicare l'impatto estetico dell'ambiente a cui verrà sottoposto. Va bene, allora attendiamo con fiducia i risultati di questo prossimo studio. Buon lavoro allora. Grazie, arrivederci, buonasera. Le piramidi d'Egitto hanno più di 4.000 anni. E i coralli hawaiani? Anche loro, non tutti i coralli hawaiani però, sono quelli della specie Gerardia, noto anche come corallo dorato, e poi ci sono i Leiopates, noto come corallo nero. Non sono affatto facilmente visibili perché se ne stanno a 500 metri circa di profondità e questo è un vero peccato non poterli vedere bene, appunto perché, pensate, sono alti parecchi metri, si avrebbe insomma la sensazione di muoversi in una foresta di coralli. Secondo le ricerche effettuate fino ad oggi, questi coralli si pensavano avere non più di qualche centinaio d'anni. Adesso dei ricercatori californiani hanno sottoposto dei campioni alla tecnica di rilevamento al radiocarbonio ed ecco la sorpresa. Ma come hanno fatto questi rilevamenti? Sono andati a cercare le tracce delle esplosioni nucleari avvenute nei primi anni 50. Sono state tante queste esplosioni di bombe che appunto si sperimentarono nei mari del Pacifico, gli americani ma anche i francesi, anche gli inglesi, e cercando queste tracce hanno visto che esse sono presenti in uno strato di pochissimi millimetri sulla punta dei coralli. Eppure sono passati più di 50 anni. Questo ha fornito una stima della velocità di crescita e, fatti ovviamente dei semplici conti, ecco spuntare il dato di cui si è detto: migliaia di anni d'età. Per la precisione, la specie Gerardia è più giovane, 2500 anni, mentre è la Leiopates che raggiunge i 4200 anni. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ora il nostro quiz. L'oracolo di Delfi. Nella Grecia antica era un luogo nel quale da tutto il mondo arrivavano pellegrini alla ricerca di un vaticinio per le loro vicissitudini esistenziali. In tempi recenti si è capito che qualcosa di singolare in quel luogo effettivamente accadeva. Di che si tratta? Prima possibile risposta. La Valle di Delfi è una stretta conca disposta in modo da amplificare l'effetto del vento di scirocco che in essa ogni tanto si infila. Questo generava dei momenti in cui la zona era investita da una misteriosa, anche se fastidiosa, aria calda considerata un segno magico. Ci scriverete aria. Seconda possibilità. Dal terreno della montagna di Delfi emanano periodicamente quantità significative di metano e CO2, particolarmente intensi in quei tempi, 2500 anni fa. Questi due gas sono in grado di produrre negli umani una certa dose di euforia ed anche smarrimento, sensazioni che ben si accoppiavano con lo spirito del luogo. Ci scriverete gas. Terza possibilità. La Valle di Delfi ha una morfologia singolare e rarissima, ovvero quella di generare più eco contemporaneamente. Questo era noto a chi produceva i vaticini come la famosa Pizia e questi ogni tanto lanciavano grida possenti in modo da utilizzare l'eco stranissimo di cui vi ho detto e ci scriverete eco. Come? Al solito numero di SMS 349-238-6666. Il libro in premio è Vietato non toccare di Alessandra Orioli e Donato Ramani, edizioni Springer, e di questo libro parleremo fra poco. In collaborazione con IBS.it. Non sono grassi, cioè hanno la loro costituzione formosetta, ma appunto è un assetto naturale. Allora perché amano così tanto i dolcificanti come l'aspartame, che si assume, come sappiamo, per evitare lo zucchero nelle diete? Sto parlandovi dei panda rossi, non confondeteli con i panda bianchi e neri, che sono molto più grossi. I panda rossi assomigliano di più a dei koala, anche se sono un po' più grandi. Dunque, un gruppo di ricerca del Monnan Chemical Center di Philadelphia ha lavorato su 6 panda rossi, mettendo a loro disposizione delle bacinelle d'acqua per dissetarsi. In certe bacinelle c'era acqua zuccherata con il solito zucchero, in altre c'era l'aspartame. Nessuna esitazione, l'acqua dietetica è stata di gran lunga preferita. Potrà sembrarvi strano, ma le ricerche sulla percezione di ciò che è dolce, di ciò che non lo è o lo è meno, sono non poche sugli animali. Ha un suo certo interesse capire se e come gli animali percepiscono queste differenze che per noi umani sono molto nette. Ebbene, non si era mai notata alcuna differenza. Questo non vuol dire che gli animali non la sentano, diciamo che risultava ne fossero indifferenti. Anche con l'aspartame sono stati fatti questi esperimenti. Per i panda rossi invece le cose non stanno così, esprimono una manifesta predilezione per l'aspartame. Come mai? Non si sa. Nei panda grossi, quelli bianchi e neri, si è visto che mangiando il loro alimento preferito ed esclusivo, un certo tipo di bambù, a seconda del periodo dell'anno, ecco, loro mangiano prevalentemente una parte piuttosto che un'altra di questi bambù. E questa diversità rimanda probabilmente a livelli di dolce, mettiamola così, diversi. Questo è tutto per il momento. E comunque, rossi e bianchi e neri, pare che i panda siano gli unici sensibili alle dolcezze. Orme di rettili giganti qui da noi. In Italia, antiche orme del Triassico, siamo a milioni di anni fa. Le orme per i paleontologi sono come la scarpetta di cristallo di Cenerentola. Chiara Albicocco vi spiega come mai. Tra ricostruzioni di dinosauri e scheletri di balenottere giganti mi accingo ad entrare al Museo di Storia Naturale di Milano perché qui viene presentata una scoperta veramente interessante, fatta completamente da ricercatori italiani. Qui accanto a me c'è Marco Avanzini, che è geologo, ma ormai naturalizzato paleontologo per motivi professionali. Ecco, che scoperta avete fatto? Abbiamo seguito le indicazioni di un appassionato di geologia, uno speleologo che abita lungo il lago d'Iseo, e lui ci ha segnalato la presenza di possibili orme di dinosauri su una superficie di roccia. Siamo andati a visitare il luogo e ci siamo resi conto che questa segnalazione corrispondeva al reale. Ci sono almeno una settantina di grandi depressioni che sono interpretabili come il segno lasciato dalle mani e dei piedi di grandi animali che circa 220 milioni di anni fa hanno camminato in quelli che non erano ancora i territori alpini, ma che corrispondevano a grandi distese paludose al posto dell'attuale comune di zone e delle regioni attorno al lago d'Iseo. Avete trovato delle orme. Durante la conferenza lei ci ha detto: avete trovato la scarpa, ora bisogna trovare a chi appartiene, un po' come la favola di Cenerentola. Sì, direi proprio di sì. È uno dei problemi più grossi, infatti. Le orme sono affascinanti perché ti fanno entrare in una dimensione un po' di indagine che ricorda un po' Sherlock Holmes oppure i telefilm tipo CSI che vanno di moda adesso, cioè ci sono poche tracce labili, spesso di difficile interpretazione, però seguendo queste tracce bene o male prima o poi si riesce a trovare l'autore del misfatto. Noi abbiamo trovato queste tracce e noi stiamo cercando, come dicevi tu, Cenerentola, il principe, eccetera eccetera, stiamo cercando l'autore di queste orme. E siete vicini? Sì, abbiamo ristretto il campo a un paio di indiziati. Direi che ci stiamo oramai arrivando, però insomma abbiamo ancora qualche dubbio e vogliamo agire a colpo sicuro. Dobbiamo studiarci ancora un po'. Però svegliamo a chi pensiamo. Sì, per ora pensiamo a dei grandi rettili che erano un po' una via di mezzo tra i dinosauri, che conosciamo un po' tutti, e dei grossi rettili primitivi simili a dei coccodrilli. In sostanza erano dei coccodrilli che però avevano le gambe ben erette sotto il corpo, che camminavano molto velocemente, che riuscivano a correre, che non trascinavano le code, quindi erano perfettamente adattati all'ambiente terrestre e che addirittura in questo tempo, circa 220 milioni di anni fa, sono riusciti a entrare in concorrenza con i primi dinosauri. I dinosauri hanno fatto molta fatica all'inizio a prendere il posto di questi animali, perché questi animali erano così furbi, così bravi, così specializzati che probabilmente gli rubavano il cibo, li occupavano tutte le nicchie ecologiche possibili. Ma possiamo addirittura pensare che fossero antenati dei dinosauri? Allora, sicuramente fanno parte dello stesso gruppo di rettili dai quali poi partono i dinosauri. Sono arcosauri? Appartenenti alla famiglia? Certamente, sono degli arcosauri. In realtà potremmo addirittura dire che sono arcosauri crurotarsi, ma questo è un termine ovviamente un po' esperti. Più esatto per gli esperti. Anche i dinosauri sono arcosauri, ma in fondo anche gli uccelli attuali sono arcosauri. Anche i coccodrilli sono arcosauri. Quindi fanno parte della grande famiglia di animali dai quali poi nasceranno i dinosauri, nascono i coccodrilli, eccetera eccetera. Questi sono molto vicini al punto in cui i coccodrilli e i dinosauri si separano, quindi non sono gli antenati in senso stretto, però sono i parenti più vicini che i dinosauri avevano a quel tempo. Ecco, adesso lei ci deve far capire che tipo di importanza ha questa scoperta, perché immagino che per un paleontologo sia un po' come fare 13 al totocalcio, però per noi curiosi e basta, insomma, per poco esperti, che tipo di importanza ha questa scoperta qui in Italia soprattutto? Ma in Italia è significativa perché è la prima volta che troviamo tracce di questo tipo e di questo periodo nelle rocce appunto del nostro paese. Quindi vanno a riempire un tassello, un punto di domanda che oramai da qualche anno i ricercatori si ponevano. Un mio collega, un importante paleontologo, scriveva una quindicina di anni fa che un capitolo sui dinosauri italiani non poteva essere scritto perché il tempo dei dinosauri in Italia era sott'acqua. Nel giro di 15 anni si sono trovate orme, ossa, che hanno smentito un po' questa idea. E quindi abbiamo oramai un'idea abbastanza completa di quale sia stata la storia di questi rettili primitivi che poi sono diventati dinosauri nel nostro paese. Però avevamo ancora un buco attorno a questo intervallo di età. Allora, in Italia ora questo buco non ce l'abbiamo più. Sappiamo che anche in questo tempo vivevano gli animali. Abbiamo capito in che relazione erano con quelli che vivevano prima, quelli che vivevano dopo, ma soprattutto possiamo entrare in un dibattito internazionale, perché in altri luoghi del mondo ci sono orme ed ossa di questo periodo che sono sempre frammentarie, poco conservate, quindi più ce ne sono meglio è, per riuscire a capire un po' meglio di questa età, e le nostre in questo momento riescono a competere bene con quello che c'è in giro per il mondo. E mi pare anche di aver capito che lo stato di conservazione è buono. Sì, e in alcune no, ovviamente, ma un'orma è anche quanto di più labile ci sia. Dopo che l'animale è passato di lì, il vento, l'acqua le ha un po' cancellate. Altre invece sono molto ben impresse, riusciamo a riconoscere le unghie, i muscoli delle dita, riusciamo a vedere le pieghe della pelle, la morfologia perfetta degli arti, e quindi da queste orme possiamo ricostruire il piede che ha pestato di lì e l'anatomia dell'animale che le ha potute lasciare, certo. Una volta rinvenute le impronte sul luogo, che altro tipo di studi avete effettuato? Posso pensare ai calchi, ma anche studi tecnologicamente avanzati. Sì, ci abbiamo provato a utilizzare delle tecnologie nuove che vengono utilizzate in altri campi delle scienze della terra o dell'ingegneria. Abbiamo provato a usare uno strumento laser che permette di avere modelli tridimensionali delle superfici rocciose o degli oggetti, e quindi di poter in qualche modo metterci nel nostro computer un modello perfettamente aderente alla realtà di quella superficie, potendo quindi studiare le orme in laboratorio, a casa, con calma, in condizioni. Portarsi a casa, diciamo, il materiale di studio che sarebbe impossibile invece, certo, portare a casa. Esattamente, proprio così. Ovviamente non è come avere il vero, c'è un po' di differenza, però oramai la definizione, il grado di precisione di queste tecnologie è tale che, utilizzate e trattate in modo intelligente da esperti che lavorano con noi, ci danno tutte le informazioni che ci sono necessarie. La scienza che studia lei si chiama icnologia, che è un po' la scienza che studia le orme. Com'è possibile da un'orma riuscire a ricostruire l'anatomia di un animale? Ci sono delle proporzioni che vengono rispettate in tutti i vertebrati. Diventa abbastanza banale pensare che un giocatore di basket di 2,20 m probabilmente con difficoltà calzerà una scarpa numero 36. E per gli animali, per i dinosauri, per i rettili in particolare, queste regole sono ancora più conservate. Cioè ci sono delle proporzioni corporee che sono fisse. Quindi una volta che uno fa uno studio su un numero sufficiente di scheletri per avere una buona casistica, da lì può, utilizzando i rapporti dimensionali tra le varie dita, tra la posizione della mano e del piede, la distanza tra un passo e l'altro, riuscire a costruire un po' alla volta la lunghezza del piede, dalla lunghezza del piede alla lunghezza della gamba, dalla lunghezza della gamba alla lunghezza del corpo, e via via così, fino in qualche modo a tracciare la sagoma di un animale. Certo, ci rimarrà sempre il dubbio di che colore era o di che tipo di scaglie poteva avere sulla superficie del corpo, ma lì c'è sempre la fantasia che ci aiuta. Vi segnalo che sul nostro sito troverete parecchie foto che riguardano questa recentissima scoperta commentate. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ogni tanto, in questo anno dedicato al suo famoso viaggio, parliamo di Charles Darwin. Lui aveva anche forti interessi geologici e quando partì per il suo viaggio aveva certe idee in merito. Alla fine le aveva cambiate. Maurizio Meris vi racconta cosa successe. Charles Darwin il naturalista, Charles Darwin il padre della teoria dell'evoluzione. È un Darwin che conosciamo bene, questo di cui si è detto molto. Pochissimo invece si è detto di Darwin il geologo. E si tratta di un fatto abbastanza paradossale per almeno due ragioni. La prima è che Darwin fu geologo, almeno quanto fu studioso di esseri viventi. È un dato che emerge molto chiaramente sfogliando alcuni dei molti taccuini che lo scienziato infarcì di appunti, per la verità, insomma, abbastanza indecifrabili, durante il suo viaggio intorno al mondo. E la seconda ragione è il rapporto molto stretto fra lo sviluppo della geologia nella prima metà dell'Ottocento e lo sviluppo delle teorie evoluzionistiche, perché all'epoca ce n'era più di una. Ebbene, è difficile trovare chi meglio di Guido Chiesura può parlarci di questo côté geologico, diciamo così, del grande naturalista. Guido Chiesura ha già pubblicato per le edizioni Evelius Darwin Geologo, c'è anche un sito omonimo www.darwingeologo.com e più recentemente ha curato un'antologia dal titolo Charles Darwin, opere geologiche. Buonasera Chiesura. Buonasera a lei. Dunque Chiesura, forse potremmo partire facendo un rapido punto su una disputa assai vivace che caratterizzava gli anni in cui fu attivo Darwin, la disputa sull'età della Terra. Beh, in effetti proprio intorno al 1830, quindi quando si stava formando Darwin, la disputa intorno all'età della Terra raggiungeva un culmine per l'ingresso sulla scena scientifica di Charles Lyell. Prima di Lyell ovviamente l'età della Terra era letta in funzione delle affermazioni della Bibbia, certo. E quindi alla Terra veniva affidato dai 6.000 ai 4.000 anni. Credo ci fosse anche un vescovo, mi scusi, che aveva stabilito addirittura il giorno. Sì, il giorno era un certo giorno di ottobre, anche l'ora aveva stabilito. In realtà questa lettura di un tempo così corto aveva costretto i geologi a comprimere gli eventi indiscutibili che tutti accettavano, perché la Terra era passata attraverso una serie di eventi. Questi eventi dovevano essere di tipo catastrofico, perché in 4.000 anni era impensabile farci stare tutto, cioè la formazione delle montagne, l'apertura degli oceani, eccetera, eccetera. E quindi l'arrivo dell'opera di Lyell ha sbloccato questo limite, questa barriera che c'era, e ha dato alla Terra un'età che Lyell non precisa, che comunque era ben al di là dei 6.000 anni. Mi pare che Lyell parlasse di 300.000 anni, quindi siamo sul crinale di una revisione radicale dell'età della Terra. Ecco, Darwin lo potremmo catalogare appunto oggi fra i catastrofisti probabilmente. Sì, e ci sono prove sempre più evidenti che Darwin, quando è partito, ma non solo, ma anche durante il viaggio, era ancora un catastrofista. Io ho scoperto in un manoscritto non ancora trascritto di Darwin, che è la Cambridge Library, che Darwin, in occasione del suo primo sbarco, risale una vallata di Santiago di Capoverde, si imbatte in un baobab, specie notoriamente longeva, e dice: beh, mi dicono che questa pianta 2-3.000 anni, e aggiunge che è stupore essere di fronte a un organismo che ha vissuto la maggior parte del tempo di questa Terra. Ora, è veramente un'affermazione sorprendente, perché 3.000 certo. anni non sono niente, quindi vuol dire che Darwin in sostanza Darwin ancora pensava ai 6.000, aveva in mano il libro di Lyell ma non l'aveva ancora letto. E che cosa gli fa cambiare idea? Ecco, gli fa cambiare idea proprio la geologia, è la geologia, la constatazione che i processi geologici sono estremamente lenti. Proprio a Santiago di Capoverde vede un banco calcareo, ancora oggi evidentissimo, che è stato sollevato in maniera molto uniforme sopra il livello del mare. Ora, la lentezza che la fragilità e l'integrità del banco comportano, quindi pongono un movimento molto lento di risalita di questa isola, cominciano a scatenare in Darwin il pensiero di un tempo che deve essere necessariamente più lungo. Subito dopo questa osservazione Darwin dice: ma anche le vallate di quest'isola devono essere posteriori al Baobab. Osservazione banale, se vogliamo, ma la formazione di queste valli gli procura un grave imbarazzo, proprio una vertigine temporale, perché non si rende conto come in un breve tempo, quale lui aveva ancora in mente, queste vallate avessero potuto essere scavate nel basalto, certo, nel duro basalto che compone l'isola. Quindi incomincia qui, secondo me, la vertigine del tempo di Darwin. Quando poi sarà in Patagonia e vedrà dei fiumi di ciottoli e si renderà conto che questi ciottoli sono della stessa natura delle Ande, e quindi collegherà le Ande con questa pianura di ciottoli, si renderà conto e dice: pensate che tempo ci è voluto per ridurre una catena di montagne, una parte della catena di montagne in ciottoli. E nei taccuini, che lei ha citato, questo prezioso miniera di pensieri, di riflessioni, effettivamente spesso poco decifrabile, nei taccuini, pensando alle isole vulcaniche, all'erosione che ha visto su queste isole vulcaniche, esclama proprio: come è immenso il tempo, how immense the time. Ecco, che influenza hanno queste scoperte, queste realizzazioni da parte di Darwin sulla concezione della teoria dell'evoluzione? Certo. Beh, quella ormai riconosciuta è quella del tempo profondo. Appunto, la sua teoria aveva bisogno, per essere giustificata, di un tempo molto grande a disposizione della natura per evolversi secondo i ritmi e la gradualità che Darwin imponeva alla trasformazione delle specie, quindi all'origine delle specie cosiddetta, ma è più giusto dire trasformazione. Quindi aveva bisogno di un grande tempo, un grande contenitore. Insomma, possiamo dire che viene prima Darwin geologo e poi Darwin evoluzionista, per certi versi. Almeno lui arriva a formulare la teoria dell'evoluzione dopo che si è già convinto dell'età della Terra, non è il contrario? Assolutamente sì, no, è così. E lui nel 1844 ha finito di scrivere il secondo abbozzo alla teoria dell'origine delle specie, temendo una morte prematura, consegna tutte le sue carte alla moglie e le raccomanda di affidare la curatela della sua opera, dei suoi appunti, dei suoi studi a un geologo, perché il geologo si rende conto del tempo che la sua teoria implica. Questo è fondamentale. Va bene, grazie Chiesura. Prego, grazie a voi, grazie. Dalle neuroscienze si può partire per costruire un'azienda. Potrà sembrare strano, ma invece è assolutamente possibile, e ne parliamo concretamente perché un'azienda è nata, si chiama Neuronica, e uno dei soci, l'ingegner Lorenzo Rossi. Buonasera Rossi. Sì, buonasera, salve. È qui con noi proprio per parlare di Neuronica. Allora, New sta per nuovo, perché siete in fondo appena nati, però sta anche per Neuronica, neuroni e neuroscienze. Rossi, partiamo proprio dal cuore della cosa, cioè come dalle ricerche in neuroscienza si può pensare di tirare fuori dei prodotti che diventano dei prodotti vendibili da un'azienda. Noi da circa 8-9 anni sviluppiamo tecniche e studi clinici nel settore della neuromodulazione, e facendo questo tipo di attività di ricerca abbiamo dovuto svilupparci i nostri strumenti, che dopo magari ti darò in caso qualche cenno, che poi possono essere appetibili anche per altri laboratori di ricerca e perfino per pazienti. Quindi diciamo è qualcosa di naturale, spontaneo, laddove si fa ricerca applicata. Adesso ricordiamo che appunto Neuronica è uno spin-off universitario basato a Milano. Esatto. Mette insieme quali campus, quali università? Beh, mette insieme, diciamo che la prima esperienza in cui vediamo come una fondazione diciamo pubblica con carattere scientifico, quindi un IRCCS, partecipa assieme a un'università, un ateneo, in un'iniziativa imprenditoriale. Quindi tendenzialmente abbiamo un set di ricercatori e l'Università degli Studi di Milano e il Policlinico di Milano a formare la Neuronica. Gli IRCCS sono gli istituti di ricerca medica, che però hanno anche un'attività di degenza, di cura classica, di degenza di cuna. Va bene, però ritorniamo a quello che lei ci stava dicendo, e cioè vorrei avere degli elementi più chiari. Le neuroscienze vanno con delle apparecchiature ad esplorare certi comportamenti del nostro cervello, ricavando, vedendo come per esempio percepiamo determinati segnali, e certamente hanno già delle applicazioni nel campo delle neuroscienze. Questo tipo di apparecchiature che voi costruite a che cosa possono servire? Le neuroscienze non sono solo servono per indagare, ma servono anche per attivare, diciamo, a particolari strutture e quindi curare delle sintomatologie. Nel caso specifico noi ci occupiamo di due tecniche di stimolazione cerebrale. Sì. Una, la stimolazione cerebrale profonda, che è una tecnica che è stata ultimamente utilizzata con ampi successi per curare, diciamo, la sintomatologia della malattia di Parkinson negli stadi più avanzati. Ed è una tecnica utilizzata con successo con uno stimolatore interno e con degli elettrodi che vengono inseriti all'interno del cranio. Questa è una tecnica in cui Neuronica sta ricercando per rendere questi stimolatori degli stimolatori intelligenti, ossia degli stimolatori che riescono a capire la reale necessità del trattamento e di conseguenza adattano la stimolazione alla necessità del paziente. Le faccio un esempio: il paziente dorme, ecco, la stimolazione dovrà essere rimodulata. Attualmente gli stimolatori sono, tra virgolette, stupidi, continuano a stimolare con le stesse caratteristiche. Chiarissimo, certo. Ecco, e questo è un filone di ricerca in cui Neuronica attiva, sia con la produzione e commercializzazione di strumenti per ricerca, sia per l'implementazione e la ricerca del sistema finale, sì, quindi quello impiantabile. Un'altra tecnica dalla quale stiamo diciamo sviluppando dei prodotti è una tecnica più meno invasiva e più semplice, che è la stimolazione transcranica a correnti dirette, anche detta polarizzazione. Consiste semplicemente nel applicare due spugnette in particolari zone del cranio, scalpo, della testa, sì, cioè dello scalpo esterni comunque, e far passare per un minuti, 5, 10, 15 minuti, dipende dal trattamento, della corrente elettrica costante con una particolare, diciamo, forma d'onda. Questa è una tecnica che è stata usata e si sta ricercando in varie, diciamo, per la cura di varie patologie, perché a seconda del posto in cui io vado a collocare gli elettrodi posso o meno modulare alcune zone, perché noi sappiamo che diciamo la corteccia ha delle varie aree, quindi noi possiamo interagire con varie patologie. Le faccio un esempio: ultimamente è uscito uno studio per il controllo, diciamo, degli effetti della depressione maggiore, sono usciti studi anche non da nostri gruppi, quindi da gruppi internazionali, sul controllo dell'afasia e sull'Alzheimer. Quindi diciamo una tecnica molto flessibile, semplice, in cui noi stiamo sviluppando appunto della strumentazione per permettere anche al paziente di utilizzarla a casa senza pericolo e in maniera semplice. La vostra produzione va nella direzione di apparecchiature per usi ospedalieri, però state anche producendo delle cose che possono essere utilizzate in casa, insomma, dal singolo soggetto. Certo, specialmente appunto per, diciamo, la polarizzazione. Lorenzo Rossi, buonasera e auguri per la vostra attività. Grazie e buonasera a voi e ai vostri ascoltatori. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La soluzione del quiz, eccola qua. Qual era la caratteristica singolare della zona di Delfi, dove tutte le genti del mondo antico si recavano per conoscere il proprio destino? Questa era la domanda. Allora, niente venti di scirocco straordinariamente forti, né in quella valle si notano eco particolari e stranissimi, invece le esalazioni di metano e CO2 sono un dato certo, quindi tutta la gente lì si sentiva un po' strana. Questa era la risposta giusta. Di piatti, quelli di ceramica lanciati in aria e abilmente fotografati, a volte neanche tanto abilmente, in modo da farli sembrare degli UFO, ovvero navi spaziali aliene, ne abbiamo visti tanti. E anche di altri strani oggetti, del tutto terrestri, spacciati per astronave, ne abbiamo visti anche di questi, molti. È una lunga storia, iniziata negli anni immediatamente seguenti la Seconda Guerra Mondiale e che è tutt'altro che finita. In generale si sono scoperte però delle gran bufale, diciamolo, e poi prove, non se ne sono mai viste, prove concrete. Però, se entra in campo un ex astronauta, uno che ha camminato sul suolo lunare nel 1971 con la missione Apollo 14, stiamo parlando di Edgar Mitchell, e questo astronauta dice che gli alieni esistono e sono fra di noi, ecco che la cosa si fa più strana. Nulla vieta che il senno possa perderlo anche un personaggio che per raziocinio e autocontrollo dovrebbe essere ai primi posti nella classifica degli umani. Però Edgar Mitchell apparentemente dicono che sia del tutto normale. C'è un particolare. Mitchell è nato a Roswell, nello stato del New Mexico, una cittadina che occupa una posizione di primissimo piano nella storia degli alieni. Si sostiene infatti che a Roswell nel 1947 si schiantò a terra un'astronave, un UFO. L'astronauta Mitchell in un convegno recentemente ha dichiarato che i cittadini di Roswell furono minacciati dalle autorità che assicurarono loro gravi conseguenze qualora avessero dato testimonianza di ciò che avevano visto. Lui dice, Mitchell era un adolescente nel 1947, che alcuni suoi concittadini gli diedero delle testimonianze di nascosto e lo fecero perché non volevano morire con questo segreto non rivelato. E dice anche che una decina di anni fa venne convocato al Pentagono per raccontare quell'esperienza, ovvero cosa gli avevano raccontato i cittadini di Roswell. Tutte le autorità però, Pentagono in testa, negano queste affermazioni. C'è comunque una possibile veridicità in questo genere di fatti. In quegli anni si sperimentarono un certo numero di aerei e anche di missili che utilizzavano i motori a reazione, una tecnologia che stava proiettando la storia degli oggetti volanti in una nuova era, quella che abbandonava la propulsione ad elica e apriva la nostra di epoca, quella delle sonde che raggiungono i pianeti più lontani. Inoltre, dobbiamo ricordare che dal 1950 al 1960 si era in piena guerra fredda, con i due blocchi impegnati a inventare un'intera nuova categoria di armamenti e in particolare di macchine volanti. È altamente probabile, insomma, che a Roswell si sia schiantato al suolo un qualcosa di sperimentale, non meglio definibile. Il che ci porterebbe a dire che andare sulla Luna non fa sempre bene? Forse sì, questa è la conclusione più corretta. Ancora una volta non abbiamo prove che portino ad altre considerazioni. Con Barbara Gallavotti sto per parlare di arte e scienza, credo che non l'abbiamo mai fatto. Ciao Federico, no, direi di no, anche perché è un tema forse un po' difficile, certe volte sembrano due argomenti totalmente scorrelati. E invece delle relazioni si possono trovare, no, è vero, lo sappiamo che storicamente ci sono anche delle relazioni molto interessanti, di più andando molto indietro nel tempo, ma comunque veniamo al nostro tema. È relativo a un libro e hai lì uno degli autori, anzi un'autrice. Sì, il libro si chiama Vietato non toccare e sono autori Alessandra Drioli di Città della Scienza di Napoli e Donato Ramani della Sissa. E qui abbiamo Alessandra Drioli. Buonasera Alessandra. Buonasera a tutti. Buonasera Alessandra. Ci sono degli esempi molto interessanti, anche provocatori, stimolanti, di oggetti artistici ispirati o connessi comunque con il mondo della scienza. Puoi farcene qualcuno? Beh sì, nella ricerca artistica possiamo parlare di un coniglietto fosforescente, per esempio, è tra quelli che ha più colpito il pubblico, quando qualche anno fa appunto uscì la notizia su tutti i giornali che Edward Cack aveva in un qualche modo trasformato, diciamo, geneticamente un coniglietto che esposto alla luce del sole diventava verde fosforescente, o una farfalla che vede modificato il disegno delle sue ali dall'artista, dalla Menezes per esempio. Quindi è così, come questi ce ne sono molti altri. Anche qualcuno particolarmente impressionante, ho sentito parlare di hamburger di carne umana. Sì, e qui c'è simbiotica, e addirittura dall'estrazione di alcune cellule poi vengono ricreati tessuti che gli artisti propongono al nostro pubblico e qualche volta propongono anche di assaggiarle. Quindi ci può rassicurare che nessun essere umano è stato comunque trasformato in hamburger? Ecco, sì, ci interesserebbe questa cosa. Assolutamente, assolutamente no. Senta Alessandro, però è tendenzialmente arte contemporanea quella su cui voi avete fatto il vostro lavoro di indagine? Sì, abbiamo fatto ristretto, diciamo, il campo a questo ambito perché abbiamo cercato di seguire proprio gli sviluppi paralleli che museologia scientifica del Novecento e ricerca artistica del Novecento hanno sviluppato nel corso degli anni, avendo veramente più punti, ecco, di contatto, dal coinvolgimento fortissimo che sono andati cercando del pubblico a più livelli, da un livello più, diciamo, semplicemente di reazione a delle provocazioni, come poteva succedere all'inizio del Novecento con futurismo, dadaismo, fino poi a installazioni invece molto più immersive, e qui parliamo di arte elettronica, interattiva, ma anche dello studio azzurro, ecco, per la computer art, certo. Esattamente, per fare nomi anche così di gruppi italiani che lavorano su queste cose, e la stessa cosa avveniva proprio nei musei scientifici, quelli che noi oggi diciamo di nuova generazione, i science center, dove veniva chiesto al nostro visitatore di premere prima un bottone per fare così l'esempio più semplice di interazione, fino poi invece a essere anche qui coinvolto con tutti i sensi per attivare meccanismi, per esplorare fenomeni scientifici. Questo è il motivo un po' anche per cui ci siamo soffermati maggiormente sull'arte contemporanea, proprio per seguire questi due percorsi in maniera parallela e capire come mai e come soprattutto è avvenuto e può ancora avvenire questo incontro fra questi due mondi. Ecco, ma in un certo senso chi ha avuto prima l'idea di coinvolgere lo spettatore? Perché per secoli lo spettatore è stato per definizione un soggetto passivo, poi a un certo punto improvvisamente si è trovato a essere protagonista nel mondo dell'arte, della scienza raccontata al pubblico. Ecco, l'idea è stata proprio quella di, più che di capire se arrivava prima questo coinvolgimento dal mondo della scienza o dell'arte, ma più che altro è stato il nostro un tentativo di capire come nell'uno e nell'altro caso questo è avvenuto. Forse possiamo parlare sicuramente di alcuni, ecco, anche nella nostra storia siamo partiti sicuramente dalle ricerche artistiche, quindi se vogliamo dire, ecco, che sicuramente alcuni casi emblematici proprio di coinvolgimento dello spettatore li abbiamo individuati prima nell'arte, forse sì, questo è vero, però poi, ecco, la museologia scientifica non si è fatta assolutamente aspettare e anzi con tantissime esperienze che poi dagli anni 60, in primis con l'Exploratorium di San Francisco, che rappresenta proprio il primo modello di science center, cioè di museo di nuova generazione che ha proprio al centro della sua mission quella del coinvolgimento del visitatore attraverso una serie di esperimenti, di quelli che noi chiamiamo gli exhibit, cioè non più l'oggetto sotto vetrina ma delle vere e proprie installazioni che aiutano il visitatore attraverso l'interazione a esplorare un fenomeno. Ecco, sicuramente la museologia scientifica ha immediatamente raggiunto e affiancato la ricerca artistica in questo senso, e è proprio quello che abbiamo cercato di dire, che questo incontro, quindi l'ingresso della ricerca artistica all'interno dei musei della scienza è stato molto naturale proprio per questo motivo, perché il museo della scienza era assolutamente pronto e anzi cercava questo tipo di esperienze, e oggi ancora le cerca sempre di più. Infatti è sempre più comune trovare degli oggetti artistici immersi in un allestimento scientifico, però l'impressione spesso è spiazzante, ci chiediamo che ci fa questa cosa qui. Molti possono essere i modi, probabilmente non ce n'è uno migliore di tutti gli altri. Alcuni esempi: il Science Museum di Londra mi sembra abbia fatto un esperimento molto interessante, nel senso che accanto all'installazione presente, che non è sempre di arte elettronica interattiva ma può anche essere, come nel caso dell'Iron Baby di Anthony Gormley, scultore inglese molto noto, è proprio una scultura classica tradizionale di un in ferro, appunto, poggiata sul pavimento, ma appunto in questo caso tutte le installazioni artistiche sono affiancate da postazioni che proprio sul modello dell'exhibit forniscono non soltanto informazioni sull'artista, sull'interpretazione dell'opera, ma pongono anche delle domande poi legate al tema scientifico che questo oggetto artistico mette in discussione e che è un po' la filosofia dell'exhibit e del Science Center, cioè quello di stimolare domande, stimolare la curiosità, e così si cerca di farlo in questo caso. Grazie Alessandro Adrioli. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. E arrivederci. Ho una manciata di secondi. In chiusura di trasmissione mi domando cosa posso raccontarvi di tremendamente diverso da un tema come quello che avete appena sentito, ovvero arte e scienza. Allora facciamo così, vi parlo di rospi australiani che si cerca di eliminare ricorrendo alle formiche. Vi va bene? Al momento non ho altro. Dovete prendervi questa breve notizia. Per carità, i rospi sono animali simpaticissimi, tuttavia nell'Australia nord-orientale sono milioni e stanno dilagando anche in molte altre regioni. Pensate che un centinaio di esemplari furono portati in questo paese negli anni 30 da un piccolo gruppo di allevatori, li presero alle Hawaii, per controllare in una zona ristrettissima la presenza di insetti nocivi all'agricoltura. Mai sostituirsi agli equilibri ecologici che riguardano la copresenza di specie. I rospi sono diventati centinaia di milioni e oltretutto c'è un problema, sono pure velenosi. Come eliminarli? Etologi australiani hanno scoperto che c'è una specie di formiche carnivore che si ciba di uova di rospi e anche di neonati di rospi. Non so cosa state pensando a centinaia di miliardi di formiche fra 50 anni. Vi ricordo ancora che sul nostro sito trovate una galleria di immagini commentate con un audio, immagini relative alle orme di rettili giganti che un gruppo di ricerca del Museo di Storia Naturale di Milano ha scoperto nelle vicinanze del lago d'Iseo. L'indirizzo del nostro sito www.moebiusonline.eu, oppure andate su un motore di ricerca come Google e digitate Moebius Scienza. Siamo in conclusione, buona serata a tutti e a tutte, ci sentiamo fra 7 giorni. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.